conte dove è andato? E non è lui che mi chiamo. Oh, disgraziato! Rammenta che son qui. Purtroppo il so. Benvenuto, contin. Bellito mio! Cosa mai dissi? Maledetta porta. Io voleva dire... Conte, parlate! Sappiate che io sono... Voi siete l'amor mio! E vi voleva dire... Che mia madre, lo so... Che non son degno... L'amor mio meritate, eccovi un pegno! Oh, maledetta porta! Animo su! Io sono amante, vera, ma di voi... No!